E loro sono i One Republic, qui su Radio Stonata con I Lived. Ci colleghiamo subito con il Brasile. L'ultimo collegamento dal Brasile con Flavio Laggio, perché la prossima settimana lo ritroveremo in Sudafrica. Ma diamo subito il benvenuto a Flavio Laggio di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Allora, sappiamo delle tue disavventure col computer, sappiamo che martedì io ho saltato la diretta per problemi personali, però ritorniamo il giovedì giusto appunto per fare un po' il resoconto della situazione lì dal Brasile e poi per il nuovo trasferimento in Sudafrica. Sì, alla fine il computer l'ho lasciato ai topi, a Massaio, nella Lagoas, questo piccolo staterello nell'immenso Brasile sulla costa del nord-est. E con autobus vari mi sono trasferito prima a Salvador, ma soltanto per pochissime ore, per poi prendere un altro mezzo che mi ha portato in comode 25-26 ore circa qui nel mezzo, nel cuore proprio del Brasile. Sono infatti nello stato di Minas Gerais, mm-hmm. che è uno degli stati interni senza sbocchi sul mare del Brasile, nella bellissima cittadina di Ouro Preto e a meno di 100 km dalla capitale di Minas Gerais, Belo Horizonte. È una cittadina relativamente piccola, poche decine di migliaia di abitanti, ma è veramente una sosta che mi ci voleva, insomma, dopo le grandi città di Massaio, di Salvador, le metropoli con milioni di abitanti. Qua invece siamo innanzitutto lontani dal mare, quindi c'è un altro paesaggio molto più verde, molto più rigoglioso. Siamo in una zona montuosa, quindi circondata da pendii lustreggianti e paesaggi variegati. Siamo in un piccolo borgo dalle caratteristiche architetture coloniali, quindi molto, molto grazioso, molto ben tenuto. Ricordano la Spagna. È un'area differente, rilassata, c'è grandissima cortesia e cordialità dalla parte degli abitanti nei confronti dei curiosi visitatori che vengono in qua per ammirare le architetture. Sicuramente qua ci sono tante piccole grandi chiesettine di stile barocco, e poi c'è una storia dietro Ouro Preto molto, molto affascinante, che attinge all'età dell'oro del Brasile, alle corse forsennate dei portoghesi e dei neonati alla ricerca del tallo nel cuore di questo enorme continente. Mm-hmm. Pronto, Beppe? Ti sento, Flavio, ti sento. Sì, scusa, intanto ho paura di aver perso il collegamento, sono sempre qua, insomma, alle prese col mezzo di fortuna, come tu hai ricordato, la mia strumentazione se n'è bellamente andata a gamballare. Dicevo, Ouro Preto c'è questa storia abbastanza affascinante. Quando i portoghesi sono arrivati in Brasile, si sono accorti che qua cresceva tutto bene, ma il Brasile non aveva grandi risorse, grandi beni primari da esportare. Un po' alla volta sono andati alla ricerca di materiali preziosi, convinti che da qualche parte, da queste parti, si nascondessero preziosi giacimenti, e hanno trovato l'oro alluvionale. E Minas Gerais è uno stato che la sua ricchezza, diciamo, culturale e storica è dovuta anche alla presenza, purtroppo, di grandi arrivi di schiavi provenienti dall'Africa. Uno di questi schiavi protagonista di una storia molto, molto interessante qua a Ouro Preto, si chiamava Chico Rei. Lui era il sovrano del suo villaggio in Africa, è arrivato schiavo qui, aveva perso la moglie e due figli durante il viaggio sull'Atlantico, e qua, grazie anche alle amicizie e alla benevolenza di alcuni cittadini di origine portoghese, è riuscito a guadagnarsi la sua libertà, diventando col tempo addirittura il possessore, il proprietario della mina in cui aveva lavorato da ragazzo. Mina che adesso qua a Ouro Preto è visitabile, con pochi soldi si può fare questo piccolo passeggiata di 15-20 minuti all'interno della mina. Non è una mina molto grande, e dicevo, con i soldi che aveva guadagnato con la mina, con il suo duro lavoro, ha acquistato la libertà di molti altri schiavi, cominciando così a generare una commissione, una stratificazione sociale complessa ed evoluta, che è forse il simbolo più interessante, più bello della cultura brasiliana. C'è una incredibile multiculturalità, che loro vivono con assoluta naturalezza e con grande nonchalance, che è un concetto che da cui noi purtroppo in Europa siamo ancora molto lontani. Sì, detto sì. Questo, Oropretto, ripeto, è una città molto graziosa. Io ho trovato sistemazione in un bellissimo hostel, molto tranquillo, si può pernottare con pochi soldi, con circa 10 o 15 euro a notte. È molto improntata sul turismo, ma i cosiddetti procacciatori d'affari non sono molto insistenti, quindi si vive abbastanza veramente. Bellissime passeggiate anche sui pendii per ammirare il paesaggio della cittadina, con le tipiche architetture, le casette bianche con le finestrelle colorate, i tetti di tegole marroni, le chiesette barocche, che purtroppo non tutte sono tenute benissimo, però insomma sono sempre una presenza molto graziosa nel panorama, nel paesaggio. Flavio, però noi, questa qua, come abbiamo già detto anche in apertura, sarà l'ultimo collegamento dal Brasile con te, perché tu ti trasferirai in Sudafrica, quindi diamo solo un assaggio. Martedì ci collegheremo, permettendo mezzi che troverai lì nel Sudafrica, proprio da lì, perché parteciperai a questa bellissima maratona nel deserto con le macchine, immagino guiderai una bellissima macchina pure. Sì, sto cercando di dimenticarmi, di non pensare al viaggio botta di cerveja e caipirinha, ma purtroppo mi aspettano tre voli aerei fino a Città del Capo. E Flavio ama volare? Sì, io adoro volare è una cosa bellissima, grazie che comunque abbia inventato e sviluppato il sistema del trasporto aviale. Mi aspetta il team, dicevo, di 7000 miglia lontano, guidato da Giuliano Radici, che riporterà, con il quale andrò, perché anch'io incredibilmente sono tra i guidatori di questi veicoli che attraverseranno l'Africa dalla Città del Capo fino a Malindi in Kenya. Speriamo entro il 30 marzo di essere a Malindi, se tutto va bene. Comunque confido in collegamenti persistenti. Se non mi sentite per più di 3 settimane, mandate qualcuno a cercarmi. Speriamo che mi trovate da qualche parte, attaccato a un bar o sul bancone di qualche taverna. Grazie Flavio Alagia di nonsoloturisti.it, divertiti con i tre voli aerei, mi raccomando, e ciao e a martedì. Ciao a tutti, grazie, buona serata.